Zolt. Fulminati in azienda. Zax Italia, priorità assoluta, centrifuga. Nel 2010 nella nostra azienda dobbiamo intervenire pesantemente sul taglio dei costi. Ma che altro vuoi tagliare? Abbiamo tagliato sul personale, sulle spese generali, abbiamo strangolato i fornitori, abbiamo pure chiamato il consulente samurai che ha tagliato i cavi all'ascensore. Vieni qua che ti faccio vedere la tabellina Excel che ho preparato di mia persona. Aspetta che si apra, vieni, guarda cosa ho trovato. Un attimo solo che... Ma si apre o non si apre? Beh, un po' lento, ogni tanto ci mette un po' di tempo. Ma si apre, non si apre. Non si apre, sono Commodore 64 questi qui, è chiaro che non no, si ma apre. Sai cos'è? È l'antivirus, molto dico io, è come il DDT, ammazza i virus e te paralizza pure il computer ogni giorno alla stessa ora. Sì, ma la domanda è, gliel'ho chiesto io l'antivirus? Ma l'antivirus non si chiede, ti arriva proprio in dote dall'IT, dall'Information Technology, ecco, capito? È il regalo, un po' la ciliegina sul PC. Certo, adesso te la do io la ciliegina, ti faccio vedere in diretta come si tratta la gente che non lavora. Allora, chiamo l'IT subito e metto in viva voce. Sì? Sì, cosa? Non vedo niente nel mio computer, sono Marco sul pezzo. Venite qui subito a rimetterlo a posto. Aspetta un attimo, dottore. Formalizzo la richiesta, sì. Le do il numerino. Ecco qua, le do il numerino. Un paio di settimane le facciamo sapere, d'accordo? Oh, Nintendo, non scherziamo per piacere, non ci siamo capiti. Il mio computer non funziona ora e voi ora me lo aggiustate. Mi sono spiegato? Ascolti, facciamo una cosa. Adesso possiamo fare un'analisi in remoto, ok? Mi dica, lei è in LAN o VAN? Ma cos'è? Cos'è? Che cos'è? Non capisco. Cioè... È in VAN, è entrato in VPN? Ma quale VPN? Ma di no, cosa per... comunque sia, se mi dà l'indirizzo IP, entro in RDP e cerco di capire cosa ho combinato questa volta. Ma cosa ho combinato? Dai questo indirizzo. Ma che indirizzo? A cosa ho combinato io? È colpa mia che non va il computer? Ascolti, mi provare almeno il nome della macchina o devo cercare in Active Directory? Ma ho perso nel computer, il mio computer. Ma che c'è? Il nome gli hai dato? Ma che nome? E se non gli dai il nome, come si fa? Cioè che... Ma il nome al computer gli devo dare? E ma che ne so? Trovato. Aveva un bacco, ecco cosa aveva. Ma aveva un bacco. Le mandiamo un nostro consulente nel corso delle prossime 5 ore che lo ritira. Tutto poi si risolve. Sì, tutto. E quando me lo ridate il computer? Quando è pronto. Consulente, un banco, ma c'entra, ma come siamo combinati? Vuoi sapere la verità? E dimmi la verità. Allora, gli informatici non si fanno governare da nessuno, capito? Sono anarchici, fanno di testa loro, non ci si capisce. Non ci si capisce, parlano arabo, mi dettano i tempi, mi prendono il computer, esatto. Non si sa quando me lo ridanno, questo è troppo. Allora sai cosa faccio adesso? Licenziamo tutti gli informatici, si dà la direzione in outsourcing, chiama il consulente samurai, che ci pensi lui. È il consulente samurai? Yes. Capo, le comunico che dalle 7 di stamattina tutti i computer dell'azienda sono bloccati. Ecco. Ma come sono bloccati? Chiamate subito quelli dell'IT, c'entri. Non ci sta più nessuno, questa è la notizia. E cosa avete fatto? Cosa avete fatto? Li avete licenziati tutti senza prima aver organizzato un servizio sostitutivo? Cioè avevo chiesto un outsourcing, non un ritorno all'età della pietra, uè Flintstone! Non avevo ancora licenziato nessuno, veramente, solo che gli informatici hanno intercettato la telefonata che ho fatto al consulente samurai dove gli parlavo del licenziamento, no? E allora... hanno organizzato il nucleo di guerriglia aziendale digitale, c'hanno in ostaggio il samurai. Il consulente stanno a tagliare tutto. Ascolta, a me del samurai frega poco, il problema sono e i computer? E i computer? Chiamiamo un consulente informatico. Peggio che peggio, così dalla padella alla brace, così mi parla un'altra volta in arabo, mi detto un'altra volta i tempi, NCS, non ci siamo centrifuga. Ho capito, ci vorrebbe una magia. Bravo, prendi appuntamento con la nostra consulente di fiducia, la maga Cisse, a mali estremi, estremi rimedi. Bello, a capo, andiamo dalla maga, dai, però usciamo dalla porta del magazzino che se ci vedono quelli del nucleo di guerriglia aziendale digitale ci fanno il mazzo, ci tagliano tutto pure a noi. Ecco, ci mancava anche il nucleo digitale, dai. Permesso. Oh, senti che aria di magia che c'è, che si respira magia. Ti colpisce, buongiorno, Maga, buongiorno, siamo sempre noi. Buongiorno, Maga. Senta, si ricorda, abbiamo fissato un appuntamento. Certo, ecco, a disposizione. Le spiego subito, noi abbiamo un problema insolubile con la rete. Perché vi piace andare a pescare? No. Ma non la rete dei pesci, Maga, la rete informatica. Ma, cioè mia, con gli informatici non si capisce niente. Lo so, mamma mia, poveretti. Ma l'avete applicata la regola di base. Ma quale, scusi? Stacca la spina e conta fino a 30. Come stacca la spina? È la prima base informatica. È sì, la spina del PC. Sì, però scusi, Maga, il problema è più serio. Ah, sì. È più serio, sì, lo vedo, ha ragione. Mamma mia, quindi vi siete messi contro gli informatici. E allora l'unguento magico vi devo preparare. Ma Maga, ma che sta di un unguento per cosa? È un unguento per le ginocchia, perché con questo è l'unica cosa che potete fare, andare a chiedere scusa inginocchiati sui ceci. No, Maga, per piacere, ma in questo modo qui noi ci pieghiamo agli informatici. Sì, guarda, gliela dico, l'unica alternativa che ci sarebbe. Ecco, allora, bisogna risalire al codice madre. La password di tutte le password. Andate nella piramide Maya del Teuta Clan, che ancora per le varietà non è stata scoperta, ma scopritela, pronunciate il sacro testo dell'uccello piumato, in lingua Maya naturalmente, al solstizio d'estate, facile, quando il sole proietta la sua magia. Maga, mi scusi, è l'uccello piumato, abbiamo capito, ci prendiamo l'unguento e ci teniamo gli informatici, che è meglio. Sì, ma a che prezzo mi chiedo? È al solito prezzo, dottore, 2 minuti 600 euro e altri 100 per l'unguento più IVA. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3z2o 1t.